Focus Economia con Deborah Losciani. Sono le 17.07, buonasera a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Focus Economia. Non vedevate l'ora che iniziasse la trasmissione per massacrarmi un po' sul tema di borsa. Ieri avevo così un po' auspicato, ecco, diciamo che questo forse è il termine giusto, questo rimbalzo dopo il forte calo di ieri di Piazza Affari, però mi dovete dare atto che fino a metà giornata quantomeno c'è stato, fino a più 0,7, più 0,8% Milano è riuscita a guadagnare e poi insomma ci si è messo proprio Mario Draghi di traverso a questa seduta di borsa che voleva quantomeno recuperare un po' del terreno perso ieri, per cui insomma con grande soddisfazione già molti ascoltatori ancora prima della sigla mi stanno dando dell'espertona di borsa e tutto quello che volete. Ci sta, ho perso la scommessa, Milano sta perdendo, perde addirittura un punto e mezzo adesso, pensate che insomma fino verso le 2:30 ha tenuto, aveva avuto una virata in negativo a mezzo punto, poi ha recuperato. Ma insomma Mario Draghi non è piaciuto, ma non sono piaciute anche alcune trimestrali. Particolarmente pesante l'andamento della Popolare dell'Emilia Romagna, che perde 11 punti percentuali. I conti sono stati proprio diffusi nel pomeriggio, anche quelli di Unipol Sai non sono in questo momento particolarmente apprezzati dal mercato, ma già da stamattina Unipol ha aperto male, adesso perde oltre 4 punti, meno 5 per A2A, meno 6 per la Popolare di Milano. Insomma si salvano in pochi, si salva il settore della moda e del lusso. Moncler invece ha avuto dei risultati particolarmente apprezzati dal mercato, il titolo già da stamattina ha aperto con un rialzo di oltre 5 punti, ha mantenuto questo rialzo per tutto il giorno, anzi lo ha incrementato, adesso è a più 6, Jux più 3,24, Tozze più 1,92%, per cui mi cospargo il capo di cenere, ho sbagliato completamente, ma insomma tanto per darvi motivo e pretesto anche di scriverci dei messaggi al 349-238-6666. Parleremo chiaramente della giornata di borsa, dei motivi che hanno provocato questa radicale inversione di tendenza del pomeriggio. Mario Draghi, oggi la Banca Centrale Europea ha mantenuto invariato i tassi di sconto, appunto i tassi di interesse, scusate, nell'Eurozona allo 0,15%, e poi le sue dichiarazioni. Uno dei componenti del basso PIL italiano è il basso livello di investimenti privati, ha detto Draghi. Ha detto anche tante altre cose che commenteremo nella seconda parte della nostra trasmissione con il corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Peraltro chiaramente Draghi è tornato anche ad auspicare, ancora una volta a strigliare tra virgolette i governi sul tema delle riforme strutturali, non si possono più rinviare, e proprio Renzi poco fa ha detto di avere apprezzato il richiamo molto sostenuto appunto di Mario Draghi sull'importanza strategica e sull'urgenza di riforme. Parleremo anche del ministro dell'economia Padoan, che oggi ha avuto un'audizione in aula alla Camera dei Deputati, ha parlato della spending review che era e resta al centro della strategia del governo, ha detto è indispensabile fare questi risparmi di spesa per il raggiungimento degli obiettivi di crescita e della sostenibilità della finanza pubblica. E peraltro dopo le polemiche degli ultimi giorni proprio con Carlo Cottarelli, il commissario alla spending review, Padoan ha riferito sugli interventi in materia di revisione della spesa pubblica alla luce degli attuali vincoli di bilancio, ma anche alla luce del dato molto negativo del PIL italiano del secondo trimestre, su cui ieri abbiamo appunto dedicato l'intera nostra trasmissione, che comunque ancora oggi ha fatto largamente parlare di sé. Parleremo poi, ecco ancora un altro, stiamo osservando il mitico rimbalzo di borsa, va bene, io oggi sono letteralmente bersagliata dalle vostre critiche, fate bene a farmele. Per quello che riguarda gli altri temi dei quali parleremo appunto della decisione della Russia, ne abbiamo parlato anche nel giornale radio, di bloccare alle frontiere appunto tutta una serie di prodotti dell'agroalimentare in risposta ai paesi che hanno deciso sanzioni economiche antirusse per naturalmente in qualche maniera richiamare la Russia Russia all'ordine sulla questione del conflitto con l'Ucraina, escludendo, avete sentito anche il pezzo nel giornale radio di Laura Bettini, escludendo vini e bevande e alimenti per l'infanzia, l'ordinanza del premier russo Medvedev parla di bando totale sull'ingresso di carni bovine, suine, pollame, pesce, formaggi, latticini e quant'altro. Faremo un approfondimento in apertura di programma su questo tema, perché c'è un esponente dell'economia italiana proprio a Mosca in questo momento che ci racconterà qual è appunto lo stato dell'arte, come stanno vivendo anche le aziende, cosa è successo oggi, visto che questo blocco parte proprio da oggi. Prima di tutto questo, naturalmente, se volete, oltre che commentare il fatto che non ho azzeccato il rimbalzo di borsa di oggi, se volete commentare anche gli altri fatti del giorno, potete utilizzare anche il nostro numero per gli sms e anche per gli altri temi, 349-238-6666. Adesso andiamo alle notizie in breve. Allora, le materie prime in apertura come sempre: l'oro risale sopra quota $1,300 l'oncia, 1,308 esattamente, in rialzo oggi in apertura anche il petrolio a New York, scambiato a $97,99 al barile. Oggi dagli Stati Uniti i dati macroeconomici che erano attesi erano quelli sulle richieste di sussidi di disoccupazione, meno 14.000 unità nell'ultima settimana considerata, a 289.000 sussidi complessivi distribuiti. Il dato di questa settimana è il secondo migliore dell'anno. Abbiamo già detto che la Russia introduce da oggi le controsanzioni decise in rappresaglia delle misure punitive varate dall'Occidente, e queste prevedono appunto un embargo totale su tutta una serie di prodotti, carne particolarmente, ma anche frutta e verdura, latte e formaggi. L'Unione Europea si dice rammaricata di queste contromisure annunciate dalla Russia, e naturalmente verranno valutate queste misure, che hanno una motivazione chiaramente politica e saranno appunto valutate più attentamente non appena si avranno maggiori elementi. Mario Draghi, il grande artefice anche di questo ribasso di borsa, che intanto vi preannuncio sta andando a meno 2% per quello che riguarda Milano. Certo che sarebbe da fare adesso, ma lo faremo dopo sicuramente, l'analisi logica e grammaticale delle parole di Mario Draghi, perché a noi sembrava avesse detto quello che già sta dicendo da tempo, ma forse il mercato si aspettava una tempistica esatta, magari delle iniziative di quantitative easing che la BCE intende prendere, ma cercheremo di capirlo dopo. Di fatto oggi la BCE ha lasciato i tassi invariati. Vi do qualche flash delle dichiarazioni di Draghi di oggi: la ripresa è moderata e disomogenea nell'eurozona, i rischi geopolitici possono minare la crescita. Certo che questa decisione della Russia oggi non farà bene per il prossimo trimestre dell'Italia, assolutamente. La BCE è pronta anche a misure non convenzionali per sostenere l'economia, ma soprattutto per riportare l'inflazione verso l'obiettivo della Banca Centrale Europea, che è il 2%. Se dovessimo cambiare lo scenario inflazionistico di medio e lungo termine dell'eurozona, la BCE potrebbe varare misure non convenzionali, incluso il quantitative easing, cioè l'acquisto su larga scala di titoli. Peraltro oggi anche la Banca d'Inghilterra ha deciso di mantenere il tasso di interesse principale allo 0,5% e i titoli acquistati a 375 miliardi di sterline. La produzione industriale tedesca delude. A giugno le fabbriche della prima economia europea hanno segnato più 0,3% su base mensile e meno 0,5% su base annua, e tra l'altro questo è un dato appunto che avevamo già dato ieri, che oggi è stato al centro di molti commenti anche da parte appunto di analisti ed economisti italiani. Nel su media trimestrale, ha segnalato Unicredit, la produzione industriale segna così un bilancio negativo per 1,5 punti, il primo segno negativo dopo 5 rialzi consecutivi. Qualche notizia dalla Spagna, alla quale oggi guardiamo con grande invidia. A quanto pare, a questo punto è il nostro termine di paragone per la ripresa economica, perché là ci stanno riuscendo nonostante una crisi profondissima che l'ha travolta negli ultimi anni, invece noi la manchiamo. Allora, intanto oggi sono stati collocati quasi 2 miliardi di euro di titoli di Stato decennali, di bonus, in Spagna al tasso minimo record del 2,68%. Il rendimento invece del titolo a 2 anni tedesco tedesco è sceso sotto zero per la prima volta dal maggio dello scorso anno. Sotto 160, intorno a 167 lo spread fra Italia e Germania, il rendimento del titolo decennale italiano è superiore a quello spagnolo e al 2,77%. Per il quarto mese consecutivo il mercato immobiliare spagnolo ha fatto registrare un saldo positivo, per cui dopo il tracollo dei prezzi delle compravendite qua il mercato immobiliare sta riprendendo quota. A giugno il numero delle compravendite è stato dell'8,8% in più rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'Istituto Nazionale di Statistica Spagnolo rileva che su base annua nel primo semestre il saldo continua però ad essere negativo di quasi 5,5 punti. La ripresa del settore in ogni caso è trainata in modo particolare dalla vendita di alloggi usati, più 17,4%, mentre quella dei nuovi alloggi segna una discesa del 3% da un anno a questa parte. Tornando a Draghi, magari vi faccio ascoltare un passaggio della sua conferenza stampa di oggi, il passaggio che riguarda l'Italia, quando Draghi ha detto che il basso livello degli investimenti privati è proprio uno degli elementi centrali che stanno pesando sul PIL italiano. Sentiamolo. One of the components of the low GDP figure for Italy. Una delle componenti della bassa crescita in Italia è nel basso livello di investimenti privati, laddove invece i consumi hanno segnato un rimbalzo. Se si guardano i dati degli investimenti privati, i numeri sono molto bassi. Non si tratta di un caso isolato nell'area euro. Il livello di investimenti privati, considerando la zona euro nel suo complesso, è modesto ed è certamente molto più basso che in altre parti del mondo, come per esempio negli Stati Uniti. Se ci chiediamo il perché di questa situazione, non è per il costo dei capitali, perché i tassi di interesse sono bassi e in alcune parti della zona euro sono negative anche da tempo. Ha a che fare con le riforme, con la generale incertezza che circonda le riforme. L'incertezza che la mancanza di riforme strutturali produce è un fattore importante che scoraggia gli investimenti. Ci sono casi in cui gli investitori vorrebbero costruire stabilimenti e creare posti di lavoro, ma aspettano mesi per ottenere le autorizzazioni. Ci sono casi in cui i giovani cercano di avviare un'impresa, ma ci vogliono 8-9 mesi prima che riescano a farlo. Questo non ha nulla a che fare con la politica monetaria. Si tratta di mancanza di riforme strutturali nel mercato del lavoro, nella produzione, nella competitività, nella giustizia e così via. Queste sono riforme che hanno dimostrato di dare benefici in poco tempo. Non bisogna aspettare tanto per vedere gli effetti. Una delle obiezioni classiche è che per fare le riforme strutturali ci vuole tanto tempo e anche per vedere i risultati. Alcuni paesi hanno però dimostrato che questo non è vero. E infatti hanno visto la disoccupazione scendere e il PIL crescere. Quindi alcune di queste riforme portano benefici immediati, mentre altre hanno bisogno di più tempo. E allora vedo che almeno qualche ascoltatore anche mi incoraggia un po' dopo le previsioni di ieri e riconosce che, pur avendo invitato Maria Longo a fare un commento sul possibile andamento di borsa oggi, lui non si era voluto esporre. Invece, insomma, la mia esposizione mi è costata cara oggi, peraltro costa cara a tutti, perché questo meno 2% onestamente non ce l'aspettavamo. Comunque, andando avanti, oggi ha parlato anche, lo abbiamo anticipato prima, il ministro dell'economia italiano Padoan in audizione alla Camera. Dal 2015 la ripresa più decisa e sostenuta, speriamo ministro, crescita e inflazione del 2014 sono inferiori alle attese, ce ne stiamo accorgendo, il compito del governo è sostenere la ripresa, la legge di stabilità del prossimo autunno terrà conto di questa minor crescita e poi ha anche detto che dopo tutta la polemica di questi giorni su di nuovo il bonus di 80 euro, perché Confcommercio, lo ricorderete, ha detto che gli effetti di questa misura sono stati letteralmente invisibili, mentre Renzi appunto a distanza aveva difeso questa sua iniziativa. Padoan oggi cosa ha detto? Se è permanente, come hanno intenzione di mantenerlo appunto al governo, avrà effetti, le coperture sono strutturali, saranno strutturali nella legge di stabilità. È quantomeno prematuro abbandonarsi a valutazioni sull'impatto dell'introduzione del bonus fiscale a soli 3 mesi dalla effettiva ricezione da parte delle famiglie. Un taglio del cuneo fiscale per produrre effetti significativi sulle decisioni di spesa delle famiglie e di investimenti delle imprese deve essere credibile e permanente. Esso necessita quindi di essere finanziato a regime con misure di carattere strutturale. Questa convinzione sarà riflessa nella legge di stabilità 2015 a cui sta lavorando il governo. E poi il tema del risparmio di spesa, appunto della spending review sulle risorse. La decisione sull'allocazione delle risorse è una delle funzioni essenziali della politica, ha detto Padoan, e sentiamo allora un commento anche su questo punto. A differenza di misure di tagli lineari, il processo e l'attività di revisione della spesa consiste nell'identificare risparmi permanenti attraverso la modifica dei meccanismi di spesa, di aumento dell'efficienza della fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione e della individuazione di un ordine di priorità delle politiche pubbliche, anche sulla base della valutazione della loro efficacia rispetto agli obiettivi attesi. Il processo di revisione della spesa e le decisioni che ne conseguono sulla riallocazione delle risorse, sui meccanismi decisionali, su eventuali tagli della spesa pubblica è compito del governo, sulla base di indicazioni di opzioni elaborate sul piano tecnico. La decisione sull'allocazione di risorse, finanziarie o no, è una delle funzioni essenziali della politica. Ancora un paio di notizie prima del primo approfondimento, quelle che ci hanno un po' colpito oggi. Vi risparmio tutte le dichiarazioni di oggi del ministro Lupi su Alitalia. Credo che Alitalia sarà il nostro tema centrale della puntata di domani, visto che si dovrebbe siglare formalmente, ufficialmente e definitivamente l'accordo con Etihad. E volevo leggere questa dichiarazione di Carlo Cottarelli, il commissario alla Spending Review, che ha detto: adesso io lavoro, continuo a lavorare, ci sono cose importanti da fare, tutto il resto insomma non mi interessa, io mi concentro sul lavoro, se mi convoca Renzi io ci vado. Dal taglio delle partecipate ci aspettiamo 2-3 miliardi di risparmio. Un'altra notizia di oggi che vorrei leggervi, perché anche questa ha suscitato ancora una volta un grande dibattito, lo notavo oggi su web. Come sapete c'è un tasso di disoccupazione elevatissimo fra i giovani lavoratori, ma oggi ancora una volta è stata diffusa un'indagine della Fondazione Consulenti del Lavoro che ancora una volta fa una fotografia su tutti quei lavori disponibili e che in Italia non si vogliono fare. Ci sono gelaterie, pasticcerie che hanno sempre più difficoltà nel trovare nuovi dipendenti, posti vacanti per esempio in questo settore sono 2000, quindi vi suggerisco di andare a vedere questa indagine, anche se ci farebbe piacere che fotografassero soprattutto le città dove queste professionalità sono ricercate, perché in tante città chi cerca anche i lavori più umili del mondo non trova nulla. Adesso ci fermiamo, perché non ci fermiamo, andiamo al primo approfondimento di oggi. Buonasera ad Antonella Scott del Sole 24 Ore, inviata ripetutamente a Mosca e non solo. Antonella, buonasera intanto. Buonasera. Allora, faccio un po' la cronaca di questa decisione russa partita oggi. Come si concretizzano queste controsanzioni decise proprio in rappresaglia alle misure punitive che l'Occidente ha varato contro appunto Mosca per la crisi in Ucraina e non solo? Sì, dunque oggi è successo che il primo ministro Medvedev ha dato voce al decreto firmato ieri da Putin, in cui si dava ordine appunto di preparare una lista di prodotti che sarebbero stati messi sotto sanzione dalla Russia e quindi che saranno per un anno, a partire dal 7 agosto, ne sarà vietata l'importazione in Russia. E si tratta di prodotti alimentari, quindi la Russia è andata a scegliere forse il settore in cui spera di poter fare meglio da sola. Ricordiamo che quello che su cui l'Europa e l'America l'hanno colpita soprattutto è il fronte l'accesso ai mercati dei capitali, sono le esportazioni europee e americane per l'industria della difesa e per l'industria dell'energia. In cambio invece la Russia chiude, nega il suo mercato, il mercato di prodotti agricoli, appunto, che ricordiamo sono soprattutto si concentrano, insomma la lista che è stata pubblicata oggi si concentra su grosso modo carni, bovine, suine, pollame, pesce, formaggio, frutta e verdura, congelate, no? Cioè, ci sono già appunto le liste che cercano, anche perché poi ogni paese europeo sta cercando di fare un po' il calcolo di quello che gli verrà a costare questo. Adesso noi lo faremo naturalmente anche per l'Italia, però sì. Già appunto oggi hai sottolineato in un pezzo pubblicato sul sito del Sole 24 Ore come in rete già stiano circolando delle fotografie di file di scaffali vuoti nei negozi di Mosca e non solo. Sì, perché ora sarà chiamata l'agricoltura russa a cercare di compensare quello che non si potrà più trovare nei negozi, ovviamente questi scaffali vuoti, speriamo almeno sono un po' una provocazione, in realtà ci sono già nei supermercati diversi prodotti russi che possono compensare. Certo, delle scorte ci saranno. Saranno messi alla prova comunque, cioè di poter riuscire, magari potrebbe anche, se uno vuol proprio andare a vedere il lato positivo, essere uno stimolo, uno sprone per migliorare la produzione locale, anche se poi si parla di accordi con cui la Russia vorrebbe aumentare le importazioni dai paesi che non prende di mira, e quindi non so, America Latina, Turchia. Certo, trova risorse altrove, ma in ogni caso, Antonella, a tuo avviso quanto tempo potrebbe durare questo braccio di ferro? A quali condizioni Medvedev potrebbe ritirare questa ordinanza? Ecco, purtroppo le prospettive, almeno mi sembra che non siano affatto buone. L'ordine, il bando, diciamo, vale per un anno, a differenza invece di quelle delle sanzioni europee che sono state decise con scadenza trimestrale, quindi ad ottobre saranno sottoposte a revisione, nella speranza che la situazione politica in Ucraina sia cambiata. Certo. Il problema è che invece, vedendo la situazione là e anche come la Russia reagito, quindi con questo nuovo isolamento, con questa nuova tensione, che ho paura che il fronte commerciale adesso arriverà a essere, a fare anche da miccia per peggiorare ancora la situazione, la lontananza sul fronte invece militare. C'è anche da aggiungere che queste sono ancora voci, Medvedev ne ha parlato così con prudenza, però da una parte un altro settore che potrebbe aprirsi è quello dei cieli, cioè loro hanno minacciato di chiudere alle compagnie aeree europee e americane la possibilità di sorvolare la Russia. Questo vuol dire cambiare rotte, fare delle rotte molto più lunghe e anche molto più costose, ovviamente. E poi anche la possibilità, è una notizia che sta cominciando a girare adesso, la possibilità che stiano preparando un secondo pacchetto che invece vorrebbe andare a colpire i settori industriali. Può darsi che sia un modo, una minaccia e basta, una prova di forza, però. Però abbiamo visto che sono capaci poi di concretizzare queste minacce. Antonella, grazie intanto. Grazie a voi. Ti lasciamo andare appunto a scrivere per il quotidiano, ma io vorrei capire qualche impatto più concreto rispetto a questa decisione, qual è, direttamente con gli operatori del settore. Buonasera, grazie a Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Federalimentare per l'internazionalizzazione, ma è anche amministratore delegato di Inalca Cremonini, ma è soprattutto a Mosca, dottor Scordamaglia, giusto? In realtà non proprio a Mosca, ma in Kazan, quindi comunque nella Federazione Russa. Molto bene. Tra l'altro qui a Mosca per chiudere un nuovo investimento ed aumentare la nostra produzione direttamente qui in Russia, quindi è abbastanza coerente. Quindi proprio per bypassare eventualmente il problema che si è concretizzato da stamattina. Beh no, allora andiamo per ordine. Noi in Russia ci siamo da 25 anni. Sentivo prima le discussioni sugli scaffali vuoti, sono assolutamente ridicole, nel senso questi hanno una potenzialità agricola ed agroalimentare che è 10 volte la nostra. Se decidono di valorizzare la loro produzione agricola, questo paese non ha bisogno di nessuno. Quindi i danneggiati da queste sanzioni siamo noi, paesi, sì, come l'Italia, perché magari l'Italia invece, questo mercato è un mercato che attrae fortemente prodotti di eccellenza, quindi noi siamo qui a produrre commodity, ma i prodotti di eccellenza li produciamo in Italia e li esportiamo verso questo paese, e quindi indurre la Russia ad adottare delle misure, delle contromisure sull'agroalimentare, ovviamente l'Italia la danneggia, ed è una prima valutazione. Il danno complessivo per l'agroalimentare italiano è sui 100 milioni di euro, ma potrebbe anche essere di più. Ci dà qualche dettaglio in più, ce l'ho anticipato poco fa, sulle motivazioni della sua presenza in quest'area, dottore Scordamaglia, anche per capire eventualmente, nel momento in cui magari questa crisi commerciale si superasse, appunto, che opportunità ci sono per le aziende italiane? Sì, certo. Allora, l'agroalimentare, l'agricoltura, se vogliamo, russa, italiana, parliamo di Italia perché nelle relazioni con la Russia, ogni volta che si parla di Italia, i russi approcciano in un modo estremamente positivo e costruttivo. Ogni volta che si parla di Unione Europea e soprattutto di Commissione Europea, per tutta una serie di errori che la Commissione continua a fare, approcciano in maniera negativa. Quindi questa è una considerazione per dire che il governo italiano alla guida della Presidenza dell'Unione Europea è un fatto positivo che potrebbe un po' favorire la ripresa del dialogo, perché ci stimano molto più di quanto stimino diversi altri paesi europei come paese. Detto questo, loro, la Russia ha delle potenzialità agricole enormi in termini di proprio di commodity, di produzione agroalimentare, di ettari fertili, e producono quelle materie prime di cui il mondo ha bisogno. Di contro il mercato russo ha una richiesta fortissima invece di prodotti di eccellenza, soprattutto di prodotti italiani. Quindi noi con questo paese sull'agroalimentare non siamo in concorrenza, ma siamo perfettamente integrati. E come tale il gruppo Inalca, il gruppo Cremonini, che oggi è praticamente per fatturato quasi il primo gruppo, uno dei primi gruppi alimentari in Italia, da un lato esporta i prodotti di eccellenza, ma dall'altro è un produttore russo a tutti gli effetti. Mm-hmm. Cioè produce qui la carne, la trasforma, fa gli hamburger e li vende a McDonald's, non solo, ecco, giusto? No, non solo. Li vende a tutte le catene di fast food e commerciali in Russia, in quanto è sulle commodity un operatore russo. Quindi credo abbiamo una visione abbastanza oggettiva. Certo. Tutto questo, dottor Scordamaglia, per arrivare a dire allora fino a che punto dobbiamo preoccuparci della situazione che è venuta a manifestarsi da questa mattina, se non si dovesse risolvere nel medio termine o nel lungo termine, appunto, secondo lei, tutto sommato, appunto, quale impatto dovremmo avere? Perché lei sa benissimo che ieri abbiamo avuto una larghissima discussione sul tema del PIL del secondo trimestre, che è andato a picco e praticamente ha fotografato anche una situazione di esportazione che sta tendendo a rallentare, per cui effettivamente non è di poco conto questa crisi con la Russia in questo momento. Per l'industria agroalimentare italiana non è di poco conto per niente, perché nel 2013, rispetto ad un export che è aumentato del più 5,8 e che adesso rallenta ai primi mesi del 2014, cioè export agroalimentare, la Russia ha fatto più il 24%. Quindi non sono solo a rischio i 600 milioni di euro dell'agroalimentare italiano che si sviluppa in questo paese, ma c'era una crescita esponenziale che in questo modo si blocca. Che cosa bisogna fare? Non fare la cosa più stupida che si è fatta, non si fanno sanzioni contro un paese che non ha bisogno di te, se tu hai bisogno di lui. Per cui bisogna tornare ad essere ragionevoli. Il nostro governo, ripeto, il governo italiano è quello più stimato in termini di rapporti diretti con la nostra Presidenza del Consiglio, eccetera. Alla Presidenza dell'Unione Europea raffreddi un po' la cosa e si offra di fare da mediazione, da intermediario per riportare la situazione alla normalità, perché chi ha più da perdere è l'Europa e non la Russia. Dottor Scordamaglia, è difficile fare impresa in questi territori? Quali sono le problematiche che si devono affrontare? Adesso voi avete ormai una presenza consolidata e di esperienza, ma per chi vorrebbe iniziare ad esplorare questo territorio, che tipo di approccio deve avere? Allora, le dico subito, ha dimensioni adeguate, non è un paese in cui ci si può improvvisare da microimprese. Di conoscenza delle regole del territorio, non si può improvvisare senza essere qui e non aver costruito qui una propria storia più che ventennale, quindi secondo me deve fare sistema. Noi per esempio vendiamo qui oltre 2500 prodotti, molto sono di piccole e medie aziende italiane che da solo non arriverebbero ovviamente mai su questo mercato. Quindi sicuramente le problematiche ci sono, la conoscenza dell'ambiente e della norma è fondamentale, non è facile la pressione competitiva, però ogni volta che qualcuno mi dice come fate a sviluppare in Russia un ambiente così difficile, lei pensa che in Italia sia più facile? Faccio sempre un esempio: noi abbiamo costruito in Russia un impianto da 120 milioni di euro a Mosca in 2 anni, un impianto che stiamo inaugurando il prossimo mese ad Orenburg in 18 mesi, a Modena siamo fermi da 4 anni con l'allargamento di un impianto. Ma questo allora è il motivo per cui gli stranieri non vengono ad insediare nessun impianto produttivo, appunto, perché sanno benissimo che tipo di ostacoli burocratici hanno soprattutto, certo. Allora, l'ambiente qui è duro e non serve che qualcuno da Bruxelles lo complichi ancora, certo, adottando delle misure che sono controproducenti solo per noi, questo è il punto. Poi è chiaro che l'agroalimentare italiano è apprezzatissimo qui, come tutto quello che è italiano, e quindi lavorare in questo settore un valore aggiunto lo ha. Dottor Scordamaglia, la ringrazio molto per la sua testimonianza molto chiara, molto efficace e molto concreta. Naturalmente noi speriamo che invece dal punto di vista da cui siamo partiti, questa guerrina commerciale, appunto, che si è creata nelle ultime ore si sblocchi e si risolva presto. Grazie, buon lavoro. Lo speriamo tutti. Certo. Buonasera. Adesso io mi getto letteralmente in pasto agli ascoltatori, perché abbiamo questo meno 1,94% sul FTSE MIB, e i protagonisti di questa seduta li commentiamo tra poco con Eleonora Micheli di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Adesso una piccola pausa. Non ho perso tutte le speranze, cioè le ho perse ormai per questa giornata, perché il bilancio è veramente negativo. Non perdo tutte le speranze che magari domani qualche miracolo si possa compiere. Allora vi racconto cos'è successo oggi in borsa. Buonasera, ciao da Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Buonasera. Allora Eleonora, ti racconto cosa è successo ieri, lo sa bene CEO Condina, mi sono avventurata su un terreno molto scivoloso e dopo aver visto quel ribasso così profondo, che era stato anche peggiore nel corso della giornata, meno 2,7% sul finale di seduta, ho detto state tranquilli perché domani qualche gestore va a fare un po' di shopping, sicuramente si compra qualche società e avremo un rimbalzino, non dico niente di rilevante, ma un rimbalzino tecnico lo portiamo a casa. Non ti sto neanche a dire quanti ascoltatori me ne stanno dicendo di tutti i colori, perché mi dicono era meglio se vai a fare la maga o altro. Insomma, questa mattina Piazza Affari ha tentato un timido rimbalzo. Intanto diciamo, no, più 0,7 forse ci è arrivata. Un altro mi riconosce quantomeno l'onestà intellettuale di espormi, no? Di non fare un po' la Svizzera che non si prende nessuna responsabilità. Detto questo, però, quello che vogliamo capire è che se per metà giornata un rimbalzino c'era, che cosa ha detto Draghi? Perché io sto cercando di capire tra le sue parole qual è quella proprio che poi ad un certo punto ha scatenato di nuovo le vendite. Ma Draghi innanzitutto ha detto che il ritmo della crescita in Europa sta rallentando e quindi questo ha confermato un po' i timori che già circolano tra gli investitori. In più ha puntato l'indice sul fatto che non vengono effettuate delle riforme strutturali, in particolare in Italia, dove questo allontana la possibilità di investimenti da parte dei privati e quindi ha creato un certo disagio e una certa preoccupazione. Ha ribadito che la banca centrale è pronta a interventi di qualsiasi tipo, però di fatto non ha annunciato niente, esatto. Solo il fatto che i tassi sono rimasti allo 0,15% e se qualcuno magari aveva messo in conto che proprio a seguito del peggioramento del PIL italiano piuttosto che di un rallentamento dell'economia europea in generale, la banca centrale oggi magari intervenisse con fuochi d'artificio, niente di tutto questo è avvenuto e quindi questo ha scatenato un po' le vendite. E poi ricordiamo che siamo ad agosto, quindi la volatilità è un po' alle stelle. Allora, un ascoltatore Sandro mi dice, consolandomi un po', le tue previsioni erano giuste, la borsa che è sbagliata, può darsi. Io così mi adagio su questa chiave di lettura, ma andiamo un po' a protagonisti positivi e negativi della giornata. Allora, cominciamo intanto con le buone notizie, così almeno ci tranquillizziamo un po'. Quantomeno Moncler ha soddisfatto gli analisti e i gestori, gli investitori, con i conti che sembrano molto buoni, perché il titolo sul finale fa più 6,26% e da stamattina è andata sempre bene Moncler. Sì, Moncler piace soprattutto anche agli investitori stranieri, del resto la società ieri a borsa chiusa ha annunciato che nei primi 6 mesi dell'anno ha visto più che raddoppiare l'utile a 18,1 milioni, anche i ricavi sono andati più che bene, peraltro distinguendosi anche rispetto ad altre società di moda in cui abbiamo visto tutto sommato un rallentamento. I ricavi di Moncler sono saliti nei primi 6 mesi dell'anno del 19%. Diciamo che Yoox e Tod's allora le sono andate un po' dietro. Sì, esatto, Yoox e Tod's sono andate dietro, non è avvenuto altrettanto per Ferragamo che invece ha fatto meno 1,3%, chissà, forse è andato in scia un po' anche la semestrale di Prada che non ha proprio esaltato gli investitori. Del resto ricordiamo che Ferragamo è molto presente in Cina così come Prada in tutto il mondo asiatico. Allora andiamo un po' magari a Fiat, perché è l'unica che insomma mi ha accontentato in questo rimbalzo che avevo così preannunciato ieri, pronosticato e auspicato, direi più 1,39% per il lingotto. Sì, più 1,39% in questo caso è stato lo stesso Sergio Marchionne a scendere in campo e rassicurare sulla fusione Fiat Chrysler, anzi ha un po' puntato l'indice contro la stampa che invece ha a parere del manager esagerato il timore che le cosiddette richieste di recesso contro l'operazione siano alla fine superiori a 500 milioni, ricordiamo nel caso in cui cui si verificasse tale ipotesi salterebbe l'operazione di integrazione. Certo. Però probabilmente saranno proprio alla fine anche i grandi gestori che non richiederanno il recesso, pur essendo magari anche conveniente, perché nel caso in cui saltasse l'operazione ovviamente non avrebbero più diritto a niente. Allora, Mediaset più un 14%, cosa ha fatto bene al Biscione? In questo caso è una notizia di Radiocore, secondo la quale Mediaset è tornata alla carica per vendere i cinema The Space. Si tratta di sale cinematografiche che in realtà controlla per il 49%, il restante 51% è in mano alla 21 investimenti della famiglia Benetton. L'azienda aveva già provato un anno fa a vendere tali sale cinematografiche, non c'era riuscita, ma il fatto che sia tornata alla carica potrebbe essere un segnale che evidentemente c'è qualche interesse concreto. Pare che la società sia valutata tra i 50 e i 60 milioni, non è un'operazione grossa, però evidentemente piace al mercato e un po' ha riacceso i riflettori su questa azienda che ultimamente sul fronte diciamo del merger and acquisition è molto attiva. Esatto, con tutte le operazioni spagnole che ha recentemente condotto in porto. Bene Telecom sul finale, il rialzo di un punto, anche Azimut mi sembra che abbia fatto dei buoni risultati di raccolta ancora a luglio. Sì, esatto, su Azimut sono stati i risultati sulla raccolta. Per quanto riguarda Telecom, oggi a mente fredda gli analisti hanno un po' iniziato a analizzare i conti della compagnia e soprattutto anche le parole dichiarate ieri dai manager nel corso della conference call. Tutto sommato anche i giudizi degli analisti erano, pur essendo a luci e ombre, erano abbastanza positivi, ma soprattutto poi si inizia a pensare che non è detto che anche in Brasile tutto sia perduto, è tutto da vedere. Telecom potrebbe fare delle mosse prima di settembre per integrarsi con GVT, o comunque la partita è ancora tutta da giocare. Eleonora, guarda, adesso vorrei raccontare con dettaglio con te i titoli invece che hanno fatto proprio sprofondare di nuovo Milano, quei titoli che mi hanno fatto perdere la scommessa con gli ascoltatori, però dobbiamo mandare il traffico, mi aspetti un minuto? Mi aspetti? Sì, certo. Eccoci qua, ok. Siamo, eccoci qua, sì, ho un problema io con il controllo del microfono, lo sto dicendo a Fabio Cantadori in assistenza tecnica e in ogni caso Eleonora, allora la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, meno 13,71%, ma che conti ha? Cos'è successo? Ma in verità è un po' un mistero, nel senso che l'istituto ha diffuso i conti che non sono nemmeno così male, nel senso che nel primo semestre l'istituto è tornato in utile dopo la perdita di oltre 19 milioni dell'anno scorso, quest'anno ha macinato un utile di 42 milioni e mezzo. Semmai diciamo gli analisti hanno, guardando tra le pieghe dei conti, hanno puntato un po' l'indice su quelle che sono le sofferenze o qualcuno ha detto che i conti sono un po' inferiori alle attese. Adesso è in corso la conference call per illustrare i conti del semestre. Ti dovessi dire il motivo esatto per cui è crollata del 13%, anche sentendo operatori e trader non è chiaro. Probabilmente qualche grosso investitore, mentre ha venduto a mani piene tutto un po' tutto il settore bancario, ha venduto in particolar modo le BPER. E insieme anche alle Popolari di Milano che scendono del 7,83%. L'ultimo commento lo facciamo su Unipolsai, anche qua in mattinata perdeva quasi 6 punti, poi ha recuperato, comunque chiude con meno 3. Sì, anche in questo caso in verità ieri a borsa chiusa la compagnia ha comunicato i conti che sono nettamente migliorati, ha chiuso infatti i primi 6 mesi con un utile netto di 357 milioni e rialzo del 4,5%. E poi la compagnia, che è il frutto appunto della fusione di Unipol, Milano Assicurazione, Premas, Fine e Fonsai, ha registrato anche premi in aumento, però evidentemente i conti non hanno convinto fino in fondo gli investitori, la borsa che probabilmente si aspettava qualcosa in più. E poi va detto che nei momenti in cui la borsa va giù si tende a vendere soprattutto per settori, e proprio il settore assicurativo insieme a quello bancario sono i più colpiti. Tanto sta parlando anche Diego Della Valle, per TOTS escono i dati e conferma il percorso di crescita a medio termine. Raccontiamo solo l'ultima storia di un piccolo titolo, Zucchi. Sì, Zucchi oggi è andata male perché è arrivata una doccia abbastanza fredda per la società, ossia la KPMG che doveva certificare i conti del semestre dell'azienda, non ha certificato appunto la semestrale, dicendo che non c'è il requisito di continuità aziendale. Ovviamente i titoli sono precipitati in borsa di oltre il 7%. Allora, tra l'altro, proprio perché oggi gli investitori non sapevano che cosa comprare, il miglior titolo in assoluto è stato quello della Roma, che ha fatto più 7%. Eleonora, grazie. Buona serata. Buona serata. Io mi continuo ancora a lasciar massacrare dagli ascoltatori. Chi ci chiede di Monte dei Paschi, è stata una brutta giornata anche per Rocca Salimbeni, come per tutte le banche. Monte dei Paschi chiude con meno 3,62%. Adesso ritorniamo a Francoforte. Tutto fermo alla Banca Centrale Europea, il Consiglio Direttivo ha lasciato il tasso principale invariato allo 0,15%, quello sui prestiti marginali allo 0,40%, quello sui depositi delle banche ancora in negativo, meno 0,10%. Tutto fermo, tanto per dire, perché poi le parole di Draghi, lo abbiamo raccontato in tutta la trasmissione, hanno movimentato e come la giornata di borsa, mandando tutti in negativo. Le altre piazze hanno fatto meno 1,36% Parigi, meno 1 punto Francoforte, Londra meno 0,6%, in questo momento è contrastata. Vedo Wall Street, anzi di nuovo tutta negativa, aveva aperto meglio il Dow Jones, meno 0,28%. Alessandro Merli da Francoforte per il Sole 24 Ore, buonasera. Sì, buonasera. Eccoci qua, subito allora il primo contributo della conferenza stampa di Mario Draghi, quando ha detto: comunque noi siamo pronti a misure non convenzionali. Il tema è che forse, non avendo dato un'indicazione tempistica, un'indicazione di tempo precisa, questo forse ha oggi un po' confuso i mercati. Sentiamo intanto questo passaggio di Mario Draghi. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie abbiamo deciso di mantenere i tassi di interesse invariati. Le ultime informazioni disponibili confermano che la ripresa dell'area euro procede a un ritmo moderato e disomogeneo, accompagnata da un basso tasso di inflazione. Allo stesso tempo, le attese riguardo l'inflazione nell'area euro nel medio e lungo termine continuano a essere ancorate e in linea con l'obiettivo di mantenere un tasso al di sotto ma vicino al 2%. Guardando avanti, i tassi di interesse rimarranno a questo livello per un periodo prolungato alla luce del contesto attuale riguardo l'inflazione. Inoltre il Consiglio è unanime nel suo impegno ad usare anche strumenti non convenzionali, se dovesse rendersi necessario per affrontare un periodo prolungato di bassa inflazione. Siamo assolutamente determinati a salvaguardare l'ancoraggio delle attese circa l'inflazione nel medio e lungo termine. To safeguard the firm anchoring of inflation expectations over the medium to long term. Poi commenteremo anche i suoi passaggi proprio specifici sull'Italia, ma Alessandro, ti chiedo, il fatto che abbia detto che la crescita dell'Eurozona è rallentata, che i rischi geopolitici possono minare la crescita, insomma non mi pare niente di particolarmente sorprendente. Tu puoi darci qualche elemento in più su queste sue dichiarazioni, appunto qualche microscopico dettaglio che ci siamo persi, tale da aver provocato oggi nel pomeriggio subito questa nuova dirompente discesa di borsa? Ma forse i mercati aspettavano una scusa per vendere, perché in realtà non c'è niente nelle parole di Draghi che possa provocare un fatto del genere. Di fatto quello che ci si aspettava, erano unanimi tutti gli osservatori di mercato, era che appunto la BCE non facesse nulla dal punto di vista delle azioni da intraprendere, visto che già le aveva annunciate a giugno, poi dettagliate a luglio, e si sapeva che comunque le prossime mosse saranno a settembre con queste iniezioni di liquidità mirate per il sistema bancario, in modo che presti soldi all'economia reale. Draghi, devo dire che sì, è suonato abbastanza preoccupato sull'impatto geopolitico, ma non credo che questo fosse a sua volta una sorpresa per i mercati. Come dico, a volte i mercati sono alla ricerca di una buona scusa per vendere o per comprare. Ha comunque promesso acquisti di bond se dovesse cambiare lo scenario dell'inflazione. Ecco, quale tipo ancora di cambiamento si aspetta? Sì, io credo che anche questo non sia un'ipotesi imminente, nel senso che appunto la BCE comincerà a settembre con queste iniezioni di liquidità, ne farà una prima a settembre, una seconda a dicembre. Nel frattempo concluderà l'esame dei bilanci delle banche attorno al mese di ottobre, quindi si farà un po' di chiarezza sullo stato di salute del sistema bancario. Credo che solo dopo eventualmente la BCE introdurrà nuove misure come quella dell'acquisto di titoli del debito pubblico. Draghi oggi ha semplicemente riaffermato che sono pronti a farlo, io non credo che lo faranno nel giro di brevissimo tempo, a meno che appunto la situazione non precipiti e i dati forzino loro la mano, però non è questo al momento l'orientamento del Consiglio della BCE, anche se ovviamente hanno dovuto riaffermare che sono pronti a intervenire nel caso di cambiamento della situazione. Giornalisti presenti, te compreso, non vedevate l'ora di chiedergli qualcosa anche sull'Italia dopo il dato di ieri sul PIL? Sentiamo cosa ha detto. One of the components of the low GDP figure for Italy. Una delle componenti della bassa crescita in Italia è nel basso livello di investimenti privati, laddove invece i consumi hanno segnato un rimbalzo. Se si guardano i dati degli investimenti privati, i numeri sono molto bassi. Non si tratta di un caso isolato nell'area euro. Il livello di investimenti privati, considerando la zona euro nel suo complesso, è modesto ed è certamente molto più basso che in altre parti del mondo, come per esempio negli Stati Uniti. Se ci chiediamo il perché di questa situazione, non è per il costo dei capitali, perché i tassi di interesse sono bassi e in alcune parti della zona euro sono negative anche da tempo. Ha a che fare con le riforme, con la generale incertezza che circonda le riforme. L'incertezza che la mancanza di riforme strutturali produce è un fattore importante che scoraggia gli investimenti. Ci sono casi in cui gli investitori vorrebbero costruire stabilimenti e creare posti di lavoro, ma aspettano mesi per ottenere le autorizzazioni. Ci sono casi in cui i giovani cercano di avviare un'impresa, ma ci vogliono 8-9 mesi prima che riescano a farlo. Questo non ha nulla a che fare con la politica monetaria. Si tratta di mancanza di riforme strutturali nel mercato del lavoro, nella produzione, nella competitività, nella giustizia e così via. Queste sono riforme che hanno dimostrato di dare benefici in poco tempo. Non bisogna aspettare tanto per vedere gli effetti. Una delle obiezioni classiche è che per fare le riforme strutturali ci vuole tanto tempo e anche per vedere i risultati. Alcuni paesi hanno però dimostrato che questo non è vero. E infatti hanno visto la disoccupazione scendere e il PIL crescere. Quindi alcune di queste riforme portano benefici immediati, mentre altre hanno bisogno di più tempo. Allora, i mali dell'Italia li ha di nuovo rielencati tutti. Mario Draghi ha rifatto il paragone, immagino, Alessandro, non so se sei d'accordo, con la Spagna, riforme strutturali. Qualcuno obietta che ci voglia molto tempo, ma bisogna farle. Quella che è stata fatta molto rapidamente 2 anni fa delle pensioni in Italia è stata contestata da tutti ed è l'unica che ha messo una parte del nostro paese in sicurezza. E insomma, verso che strada deve procedere il nostro paese, a tuo avviso, almeno nella mente di Draghi, che tra l'altro ha anche detto passerà le vacanze in Italia? Alessandro, intanto, un minuto. Sì. Diciamo che la novità principale è che Draghi abbia risposto a 2 domande, la mia e quella della collega del Financial Times sull'Italia. Di solito si trincera dietro un muro quando qualcuno cita l'Italia. Evidentemente in questo caso volevo esprimere alcuni concetti, e sono quelli che avete riportato nel brano che abbiamo appena ascoltato. Ma c'è anche di più. Draghi ha detto 2 cose. Una è quella delle riforme che è stata citata in questo brano e l'altra è quella che la tassazione è troppo alta e si opera in un'area dove già ha tassazione alta, che è l'Europa, e ci sono alcuni paesi che, che hanno una tassazione ancora più alta, e questo è un altro problema. Quindi meno tasse, ha detto Draghi, oltre che più riforme, e anche se non ha fatto esplicitamente il confronto Italia-Spagna, ha detto però una cosa molto chiara, ha detto l'Europa si divide in 2, paesi che hanno fatto le riforme e che crescono di più e paesi che non le hanno fatte e che crescono di meno. Ora vabbè, è chiaro come il riferimento sembra gruppi di paesi, sicuramente l'Italia è nel secondo. Il riferimento è implicito. Alessandro, adesso prossimo appuntamento giovedì 4 settembre, giusto? Il prossimo appuntamento è per settembre, anche se tutto sommato si sarà nell'attesa ancora una volta, appunto, a meno che non precipiti la situazione, sia di questa prima iniezione di liquidità, questa teltro, come le chiama Draghi, per il 18 di settembre, e soprattutto ci sarà nelle battute finali dell'esame dei bilanci delle banche, che sicuramente creerà un po' di fibrillazione, probabilmente prima di calmare. Grazie Alessandro Merli. Purtroppo dobbiamo chiudere, noi ci sentiamo domani. Buona serata.